libro è un successo nel piacere intellettuale. Io mi sono occupato della sua traduzione in italiano nell'ambito della casa di Luca Bersi, e questo risale a parecchi anni fa, diciamo, quasi 30 anni. Allora, ci sono 15 diapositive che sono numerate, così vi potete prendere un sospiro, vedete, da ancora molto da dire, no, siamo arrivati a 14, allora servi per poco tempo. E queste qui le farò a passo di corsa, in 15 minuti, diciamo, va bene? E poi ci saranno gli altri, e io spero vivamente nella discussione, perché vengono pure delle idee strane. Dunque, queste sono le copertine. La prima è la mia copia originale del 79, e i colori sono completamente sbagliati, non è falsi colori come nelle pellicole, sono troppo malinteso. Questa qui, se volete poi qualcuno ne vedeva, è su un arancione giallo zucca, diciamo. E voi invece vedete uno sfondo così. Questa qui è la nostra, questa che colore si vede qui? Ma si vede un po' meglio. Sì, è quel rosso della piazza Cittiera, che in realtà è questo qua. No, ma anche nella successione della collana è una delle mie cose, non si riesce mai ad avere lo stesso rosso nei. Questa è invece la edizione che è stata comprata, in cui è stato messo un disegnino che è tipico dello strano anello visivo di cui parlerà il professor Gregorio. Ecco, queste sono le copertine, e qui ci sta un piccolo riassunto che leggo brevemente, non so se voi leggete, si vede abbastanza. Meglio leggere. Allora, già qui nel 79 la Basic Books e fu un successo immediato, più di 500.000 di copie, ma adesso chissà dove è arrivata, insomma io non sono in contatto. Premio Pulitzer, insomma una cosa di una stranezza incredibile, perché non è normale. Libro che, insomma, io per esempio non l'ho letto tutto, sono stato su questo libro per 3-4 anni, quasi al limite di quello che una volta si chiama l'esaurimento nervoso, per risolvere tutti quanti calamburi, giochi di parole, eccetera. Però se mi dovessi dire, infatti adesso l'ho ripreso dopo molti anni, vedete che però, diciamo, dopo molti anni non significa che l'ho abbia abbandonato, come si sa vedere. Fu preso subito, lo vidi subito, dici no, assolutamente dobbiamo prendere, si comprò alla messa di Francoforte, e uscì nell'84, cioè 5 anni, che per i tempi, diciamo, di tipo biologico che ci mettiamo noi per vedere, non sono tantissimi, però erano parecchi. Sotto è un piccolo notiziario di Vittoria, un piccolo piano, perché in totale, se vedete la penultima riga, totale delle copie vendute circa 112.000, che in Italia per un libro scientifico è unheard of, proprio una cosa di caso e la necessità, forse fatto di modo più o meno degli stessi qualche anno prima, una cosa del genere. E continua a vendersi, no? Circa 4.000 copie all'anno. Se voi ci pensate, ogni giorno lavorativo di autore, quanto vuol dire che in Italia. Il libro sviluppò 52 anni, una cosa colossale, un mattone proprio, no? Proprio un libro di cose. E più anche le affari. 37 incisioni di Escher, 8 Magritte e una quantità di disegnini, molti di mano dell'autore, è una stessa. Ogni capitolo serio tecnico è seguito da un dialogo ammino. Che cosa vuol dire serio tecnico e ammino? Niente affatto quello che sembra, perché il serio tecnico è sempre interessante, divertente, stimolante, però è duro. Insomma, ci sono molti pezzi in cui non ci deve pensare che posso farsi prendere il pezzo di carta e farsi la situazione. E il dialogo ameno, sì, è ameno perché, come vedremo poi, ci sono strani personaggi, c'è le cose più incredibili, ma è anch'esso molto duro perché dice delle cose in un'altra forma. Beh, insomma, voglio dire, dunque, è un personaggio veramente fuori. Grosso modo, il libro non è proprio diviso in parti, ma io l'ho riassunto con quei titoli, come si dicono, no? I primi 9 capitoli, sistemi formali, in generale, come diciamo, formale, ne inventa alcuni. L'altro, gli altri capitoli, diciamo, cruciali, secondo me, che sono veramente la cosa che rimane ancora oggi, per cui si deve continuare a leggere, sono quelli che ho detto mente, macchina e Gödel, che è un tema famoso, in cui c'è stata una querela con Lucas, filosofo oxoniense, di cui molto si parla nel libro. È un problema aperto ancora per molti, come vedremo nell'ultima delle mie, subito dopo la 15ª diapositiva. DNA molto interessante, tra l'altro io poi adesso ci lavoro su queste cose, cioè io sono è imbrittato in queste cose. Un solo capitolo, ma significativo. Prelude a una visione che oggi, diciamo così, la per la maggiore l'ambito della biologia, che la biologia è computazionale, o addirittura è computazione. E gli altri tre capitoli 18-20, sono una rassegna che all'epoca era veramente sensazionale dell'intelligenza artificiale, lì c'è qualcosa di datato naturalmente. È divertente che ci siamo messi insieme, è ancora una, questo è il numero 6 della biblioteca scientifica, ancora un po' diciamo così amatoriale, e questi sono tutti i miei colleghi, amici, Barbara Feit, che conosco di meno, che adesso perso di vista, è professore di analisi matematica a Roma, Giuseppe Olongo come il vuol chiamare, e Pino Longo, credo ben noto a molti di voi come, non tanto come ordinario di teoria dell'informazione a Trieste, dove ha scritto un poderoso trattato che si è passato, perché sono un po' più vecchio da fare i grandi studi, ma è un romanziere rinomato e vi consiglio vivamente, faccio un po' di pubblicità, non è pubblicato da me. Giuseppe Dottor sarei io, che sono nel gruppo di traduzione giusto perché c'è stato da tappare dei buchi, in realtà ho fatto pochissimo come traduzione, Settimo Termini, ordinario di cibernetica a Palermo, direttore dell'Istituto di Cibernetica, Cagnello a Pozzuoli, Bruno Garofalo, personaggio eccezionale, eccentrico, mi piacerebbe che fosse qui a dire, inclassificabile, con una verve, una capacità di scrittura incredibile, tutti gli altri dialoghi, è stato un lavoro incredibile tra l'alta letteratura e la linguistica, che spesso si confonde. E fianco a Bianca Bandinelli è stata la nostra, come dire, Biancaneve, no? Che teneva questi pochi nani e rivedeva ogni riga, è una persona di una trivia incredibile, un ricordo bellissimo. E io poi da dietro mi facevo il mio esaurimento nervoso per fare queste cose. Questo è un esempio di una cosa che non ho fatto proprio una diapositiva, quindi adesso dimenticate al momento questa diapositiva. Goethe e Schelbach, dunque ho cominciato alle 11.05, vero? Goethe e Schelbach, quindi una sorta, una qualcosa di tripartito, cioè la Goethe mente, logica, biologia, calcolabilità, sta dalla parte di Goethe, le arti visive stanno dalla parte di Escher. Gracias.